canzone a chi la do, la canterò per una bambina col nome dolce d'una regina. La canterò per farla dormire, per farla ridere e sognare. Ninna nanna, ninna oh, con queste note la cullerò e coprirò ogni stonatura, ogni tristezza, ogni paura. Un papà forte ti proteggerà e una mamma saggia e mite sempre veglierà. E ci saranno zii con cui giocare e cuginetti da aspettare. Da imparare e nonne sorridenti che sanno cucinare e nuove cose, nuove sensazioni e Natale di emozioni. Poi un giorno crescerai e nella vita volerai e incontrerai amici ed amori e vorrai stare sempre fuori. Punterai in alto sempre più su e questa ninna nanna non l'ascolterai.